sottofondo, un ricordo grande come il mondo. La mia ribellione principale è la memoria, quella che dà più fastidio di tutta la storia. La memoria è un gesto ribelle, ci ricordiamo soltanto di due troiette zitelle e della loro pussy. Ci hanno ipnotizzato tutti, ci hanno ipnotizzato tutti. La memoria, io ti solleverò alla gloria. La memoria di un Picasso, di un Guernica, di un Caravaggio. Sarai Roberto Baggio, qualcosa di grande che va oltre ogni plagio. Rimango qui, descrivo questa vita che vorrei come Steve McQueen. Rimango tu sulla base come un king incoronato da 50 cents. Non so se questa roba vale 1, 2 o 3 o 4 cents. Rimango qui, scaricherai questa musica, lo dirai a tutti di ogni mia lirica. Non c'è da buttare nulla, rifaccio Reprise 2 dal nulla. Rimango qui con tutta la truppa nella mia navicella, nella mia sogna. Rimango, ci ha messo nella sua truppa, nella sua comunità cosmologica tutta. Da qui si vedono le stelle, i soli e i pianeti che ci parlano, che ci vogliono, che ci baciano detriti. Ecco perché quando sto male sento la mia anima sotto bombardamento. Una guerra marziale rimane questo rap di difesa e d'attacco. Rimango qua dentro e fuori lo stesso dallo spaccio. Faccio un salto di qua tra l'onesto e il disonesto là. Non mi macchio né di aver parlato né di aver detto nulla. Non mi macchio neanche di avermi coperto di qualche peccato. Che il mio babbo non ci rimanga male, ma sono pulito. Rimango qua il più vero, sotto effetto sclero. Rimango qua con tutta la truppa ed è un caso se ho certe cose che non a caso si chiamano così, che sembrano un caso già aperto da anni. Questi rapper sono tutti un caso, e non è un caso se questo disco esce e farà un fiasco di visualizzazioni. Io punto ai vostri cuori, mica a quanto il contatto mi faccia vedere. 3.000, 4.000 più bastano, chi se ne frega del botto. Io voglio una nicchia da coltivare, la mia nicchia ecologica voglio e son venuto a salvare. Chiunque mi voglia ascoltare, per sempre loro grato.